reportage. L'Europa della scienza per Expo 2015 di Laura Bettini. Il 9 maggio del 1950 l'allora ministro degli esteri francese Robert Schuman propose la creazione di una comunità europea del carbone e dell'acciaio, i cui membri avrebbero messo in comune quelle due produzioni. La CECA. Paesi fondatori furono Francia, Germania occidentale, Italia, Paesi Bassi, Belgio e Lussemburgo. Fu quella la prima di una serie di istituzioni europee sovranazionali che ci hanno portato alla moderna Unione Europea. Ecco cosa si ricorda oggi con la festa dell'Unione Europea che Federica Mogherini, alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, e Martin Schulz, presidente del Parlamento Europeo, festeggeranno al padiglione della UE all'Expo di Milano. Un padiglione che sarà aperto al pubblico solo da oggi, dopo l'inaugurazione avvenuta ieri con il commissario europeo all'educazione, cultura, gioventù e sport, che è l'ungherese Tibor Navracsics. Finally, thank you once again for joining me today, and I would like to warmly welcome you to visit us or participate in our scientific events. Thank you. E la vicepresidente del Parlamento europeo, Mairead McGuinness. Una scelta, quella di posticipare l'inaugurazione, dovuta alla vicinanza tra l'inaugurazione di Expo e la festa dell'Europa. Per sottolineare quanto l'UE conti sull'Expo come occasione, non solo per solleticare i palati, ma soprattutto per riflettere sui grandi temi della produzione del cibo e della nutrizione, ieri è stato presentato a un ampio consesso di addetti ai lavori e scienziati il documento elaborato in 2 anni dal Joint Research Center, il centro comune di ricerca. È un'agenda di ricerca, appunto, per garantire cibo per tutti e corretta nutrizione. Franz Fischler, ex commissario all'agricoltura tra il 95 e il 2004, è il presidente del comitato scientifico UE per Expo 2015. Well, the goal is very clear. I think it is a matter of fact that for the future we can only L'obiettivo, ci dice, è chiaro. Nel futuro possiamo garantire cibo a sufficienza solo con innovazione e ricerca, quindi dobbiamo pensare quale sia il giusto livello di sostegno che dobbiamo dare all'agricoltura e alla ricerca per l'agricoltura. La seconda cosa, prosegue Fischler, è che il sistema dell'agricoltura e del cibo sono molto complessi, quindi dobbiamo imparare a gestire questa complessità e questo dovrebbe essere uno dei risultati del nostro lavoro. Come lavorare meglio, come introdurre un approccio interdisciplinare, come portare discipline diverse in un progetto unico. And the third element, I think, is then also, and this is also our ambition, that we will be able to enlarge. Il terzo punto, dice ancora, è che parlando di agricoltura vorremmo ampliare il discorso ad altri temi che vanno oltre l'agricoltura. In campagna non c'è solo il tema dell'agricoltura, ma anche ad esempio quello dello spopolamento, della vecchiaia, del rinnovamento urbano dei piccoli centri. The link to the Expo is the following. The Expo is, in our view, a kind of window of opportunity. Il legame tra il nostro lavoro e l'Expo è questo. L'Expo è un'opportunità, dice Fischler, per entrare in contatto con 20 milioni di persone. Vogliamo iniziare qui la discussione sull'agricoltura, vogliamo che l'Europa sia un precursore, ma vogliamo proseguire anche dopo il 31 ottobre. Should not end on the 31st of October. Nel padiglione europeo, che è proprio di fronte a Padiglione Italia ed ha una terrazza invidiabile sull'albero della vita, al piano terra c'è la cosiddetta Visitors Experience, l'area in cui i visitatori faranno la conoscenza di Alex, un agricoltore, e Silvia, due giovani che uniranno le loro competenze per il bene della terra e della umanità. Matteo Pederzoli è il curatore di questo padiglione. Cominciamo dall'aspetto proprio fisico del padiglione. Quante stanze sono e che cosa c'è in queste stanze? Qui noi abbiamo praticamente la zona che è quella della queue, dove si entra, dove si fa la fila, che noi consideriamo già un ambiente, perché comunque è un ambiente dove abbiamo i quadri con i diversi esempi di pane o di specialità basate sul pane. Poi abbiamo i tre blocchi cinematografici, ognuno fatto da due stanze, quindi sono sei stanze in tutto. Una stanza che chiamiamo quella del pre-show, dove perché i visitatori incontrano i personaggi principali, Alex e Silvia, e poi la stanza principale del main show, quindi dello show principale dove noi facciamo vedere il cortometraggio. Dopodiché si esce, c'è un altro ambiente che è il corridoio, che culmina poi con il premio Nobel, perché l'idea è anche la simbologia del pane. Ricordiamo, il premio Nobel è dato all'Unione Europea nel 2012. Nel 2012 per la pace e per i diritti umani. E poi si va nella zona del content center, quindi del centro dei contenuti, dove ci sono questi schermi interattivi che rappresentano diversi ambienti, e questi ambienti coprono praticamente tutta la catena di distribuzione, perché gli ambienti sono collegati a quello che è il tema della partecipazione dell'Unione Europea, cioè coltiviamo insieme l'Europa del futuro per un mondo migliore. Dove si fa anche una bella foto con un panino che io ho fatto, che magari gli ascoltatori, se vogliono vedere, la mettiamo sul sito. Il panino è interessante, perché il panino in realtà è una stratagemma per promuovere il fatto che comunque l'Europa è sicuramente primeggia nel mondo per quanto riguarda i prodotti a indicazione geografica protetta, quindi gli IGP e anche a quelli di denominazione di origine protetta. Quindi l'idea è che uno può selezionare diversi prodotti, appunto, e con questi prodotti si fa un sandwich, si fa un panino e poi se lo può mangiare, può fare anche la foto mentre mangia il panino e poi può condividere il tutto sui social. Ma con il pane come elemento comune. Il pane è il grano che proprio è il DNA della civilizzazione, della civiltà europea, perché comunque tutti i paesi hanno delle specialità a base di pane, e infatti noi abbiamo riprodotto anche queste ricette, e domani pomeriggio faremo qui all'auditorium questo pomeriggio sulla civiltà del pane, dove ci sarà anche il concorso vero e proprio. Hanno partecipato vari panettieri d'Italia, abbiamo praticamente depositato la ricetta del pane di Alex e Silvia, che è un pane fatto con grano e miele, qualcosa di tipicamente europeo, perché prima della scoperta dell'America non c'era zucchero in Europa, per esempio, e i panettieri si cimenteranno sotto l'egida anche di Gino Massari e altri pasticceri e panettieri famosi per replicare quella che è la ricetta del pane di Alex e Silvia. Qual è l'anello di congiunzione tra il programma scientifico presentato da Fischler e l'esperienza che l'Unione Europea propone ai visitatori del suo padiglione? L'abbiamo chiesto a Giancarlo Caratti, vice commissario generale per la partecipazione della UE all'Expo 2015. Noi abbiamo tre agende che sono le correlate ma che hanno una vita indipendente. La prima agenda è quella di comunicazione. Cerchiamo di raccontare l'Europa in un modo diverso rispetto a quello che si è raccontata fino ad oggi, utilizzando l'amore come elemento di forza, e l'amore tra due personaggi che sono diversi e che quindi rappresentano il motto dell'Europa, l'unione nella diversità. Sono diversi però anche nel senso, non solo nel senso della cultura, ma anche nel senso della formazione. C'è un agricoltore e c'è una ricercatrice. Perché questo? Perché il problema della fame nel mondo e del sovrappopolamento, secondo le stime dell'ONU, si arriverà a 9 miliardi di persone nel 2050 da 7 miliardi oggi, che significa aumentare la produzione di cibo del 60%, non si risolve se non attraverso la ricerca. La ricerca è necessaria perché abbiamo oltretutto anche dei problemi di sostenibilità, che non possiamo esaurire tutte le risorse, un problema di impatto del cambiamento climatico che sulla produttività è negativa, quindi dobbiamo studiare delle culture che per esempio resistono al sale, hanno minor bisogno dell'acqua, che hanno una produttività maggiore. C'è per esempio il grano che non si deve ripiantare ogni anno ma che può essere perenne, e quindi non c'è bisogno di speccare tutta l'energia per l'aratro. Quindi esistono un'infinità di tecnologie che sono nella fase sperimentale, esistono anche molte tecnologie che sono ormai nelle fasi sviluppate ma che devono essere trasferite in paesi dove sono meno conosciute. Quindi il programma europeo di ricerca è quello di fare lo stato dell'arte che è il secondo punto, del secondo obiettivo, lo stato dell'arte della ricerca nel campo dell'agricoltura e della sostenibilità. Il terzo punto, che è fondamentale, è quello di utilizzare anche, diciamo, il fatto che in Europa il più grande settore industriale è quello dell'agroindustria. Il settore alimentare ha circa 1.000 miliardi di fatturato, il primo settore, E quindi e ci sono molti prodotti che sono anche prodotti di piccole e medie imprese, prodotti di nicchia, di geograficamente controllati, che sono poco conosciuti all'estero, quindi anche utilizzare la leva dell'Expo per poter esportare di più e quindi consentire una crescita in altri paesi, e quindi organizzando degli incontri B2B tra gli operatori del settore agroalimentare, stimolare appunto l'export e anche l'import di prodotti da altri paesi. Per giudicare se l'obiettivo è stato centrato, il consiglio è di visitare il padiglione della UE. Ne vale comunque la pena. Euro Reportage. In collaborazione con Euronet Plus.